suona la campana della sera, brillano le stelle inargentate. Io cerco invano nel mio cuor un po' di tregua al mio dolor d'innamorato senza amore. Penso a una fanciulla che mi aspetta e non vedrà mai più. Lontano, quando la notte tutto tace, io sento ancora la tua voce che mi accarezza l'anima. Il cielo è un incantesimo di luce e c'è una stella che mi dice anche il tuo cuore spasima. È come un fanciullo che vive in un sogno di favola. Io vedo il tuo sguardo brillar nella stella più tremula, tremula. Lontano, quando la notte tutto tace, io sento ancora la tua voce che mi accarezza l'anima. Sole che dai luce alla sua vita, sole che accarezzi il tuo bel fiore, ti chiedo un po' del tuo calor per riscaldare questo cuor che sogna in vano un po' d'amore. Sole, tu che vedi la mia bimba, vuoi baciarla tu? Lontano, quando la notte tutto tace, io sento ancora la tua voce che mi accarezza l'anima. Il cielo è un incantesimo di luce e c'è una stella che mi dice anche il tuo cuore spasima. Come un fanciullo che vive in un sogno di favola, io vedo il tuo sguardo brillare la stella più tremula, tremula. Lontano, quando la notte tutto tace, io sento ancora la tua voce che mi accarezza l'anima.